Rossa. C'ho fatto che stipendiato alla Croce Rossa, così se non è che ha cambiato. Ha cambiato, te lo sto dicendo. Ah? Non lo so. Lui era contento che era stata la Croce Rossa, boh. Però non era per un bel tempo. Era, non lo so il contratto quant'era. Però lì stai bene, c'è lo stipendio e ti dà tutte le balle. Allora, sì, no, cosa ti posso dire? Il periodo di Natale è già fatto con la Croce Rossa, perché ha fatto un'urgenza sotto casa mia, è venuto con l'ambulanza alla Croce Rossa. Sì, lo so, ma adesso è entrato. Gianni, sei tu? Non sei uscito di radio. Sì, perché ho schiacciato male il microfono. Ho detto che una volta ero fermo al quadrato modulando e si è avvicinato con un Kawasaki. E te carichi, se invece era già un Franco. La Honda c'ha, non c'è Kawasaki. La Honda. Sì, ha cambiato, ma ci siamo visti pochi giorni fa, ha cambiato, è a ita di emergenza, c'è lo stipendio, tutto pagato, contributi, tutto quello che gli danno, sta bene. Beh, gli daranno 1200 euro di stipendio come gli dava l'altra cooperativa, le cooperative non pagano assai, a meno che questa cassa speciale, però l'altra gli dava 1200 euro, mi pare. No, questa di più. Mi sembra che ritira 1.400 lui, anche di più. Allora già è buono, perché le cooperative non pagano tanto, danno lo stipendietto così. No, qui si già pagano gli altri, sono di aziende, questi pagano bene. Ma è una cooperativa di Sassari o di Furi? Lo sai che non ci ho capito niente, chi, di dov'è questa, cioè, lo sai che ho capito che è sarda, è di qua. Già va bene, dai. Ma se poi li abita già fa, che sono nome che non lo vedo. Lo sai dove abita, sì. A San Simplicio? Sempre lì abita. Sempre lì. Stanno bene, cavolo, addirittura fanno anche altri servizi, tipo servizi per portare sangue, roba così, se c'è a Nuoro, Oristano e cosa, tu fai tot di ore, fai, mi sembra che fai 12 ore, e poi mi sembra che c'è un giorno che sei libero, un giorno, due che sei libero, capito? Già va bene, dai. Prima ci lavorava Alessandro Sale con l'altra cooperativa, allora quindi Sandro non sta più lavorando o l'hanno assorbiti quelli dell'altra cooperativa? Non lo so, prima c'era Siriana, ti ricordi? Sì, me lo ricordo. Ci lavorava Sandro Sale, ci lavorava Angelino, come si chiama? Non mi ricordo adesso. Angelino, quello che ce l'ha soccorso Sardo prima, là, che è stato con Manola. Non lo so. Comunque, sì, stanno bene adesso, confrontare prima, ma ci sono alcune associazioni a Sassari dove li stipendiano per avere dipendenti, anche per avere persone fisse, ma secondo me sarebbe anche ora. Noi lo facevamo come volontariato, tanto io il lavoro ce l'avevo, grazie a Dio, stavo bene, avevo stipendio, quindi non me ne fregava nulla di guadagnare da lì. Lo facevo perché sentivo di farlo, così Natalino, così altra gente. Sì, ci sono stati molti che l'hanno fatto così, però non si può passare tutta cantara di inchivi, molti hanno rovinato anche le famiglie, tutta di inchivi, grazie senza far regalo da casa, puro. No, io ho un terrore di mettermi queste cose. E altro non è tutti i turni, perché le donne poi sono trascurate, basta fare i turni come facevo io mi facevo il mio turno e poi me ne andavo, non stavo tutta la dinchivi. Andavo, facevo il mio turno e poi ciao, e poi stavo con la famiglia, non è che bisogna sapere anche dosare le cose, non è che io sto tutto il giorno e trascuro la famiglia. che il primo volontariato è la famiglia, ricordo. Guarda, ci sono, c'è una persona che tu sai, ci passava giorni lì, giorni. Però in ogni mia madre doveva andare a lavorare, a regare di una casa, e ti ha giurito tutto. Quello sì. Poi vabbè. E infatti ci aveva fatto la camera sua lì, non te lo ricordi? Che c'era la camera sua. Sì, sono in chimie. Lui faceva, aggiustava le cose. E Cesare l'aveva dato un forno da aggiustare, non aveva mai turrato. Non si era venduto, doveva sì. Però non è giusto. Vabbè. Purtroppo adesso non c'è più, quindi non ne voglio manco più parlare, mi dispiace, però. È morta adesso, non c'è più, quindi non fa manco a parlarne. Sì, vabbè. Che datore della stanza, cazzo, che se la va chiusa, ti ricordi? Ehi, mi hanno messo anche l'avvocato, perché si era impadronito della stanza e non voleva che nessuno entrasse lì. Io mi ricordo che a chi subizzino, vabbè, adesso lo meritava, un pizzino che veniva in chimio un po' stronzetto, mi ricordo che gli aveva detto questo schiaffo delle scinto cazzo, arriva non rodura già ne ricare, non mi ricordo come si chiama. C'era gratta al cielo, quello basso. No, è un pizzino basso quella. Attilio. Può essere. Attilio mi stava a visitare il bus in chimio, ti lo spanno. No, con Giulio non siamo mai bisticciati. Io mi ricordo che una volta Giulio, tutta quella greffa di Giulio, Angelo Cerchio e tutti quanti lo volevano picchiare a tuo padre perché aveva messo le mani addosso a uno di loro. Non mi ricordo se era Angelo Cerchio. Sì, proprio ad Angelo, che Angelo l'ha sempre. Lo volevano picchiare in greffa, l'abbiamo fermato noi. Lo volevano picchiare in greffa. Mi ricordo che lui aveva messo le mani addosso a uno di loro, non mi ricordo chi era. Lì c'era proprio, frequentava Giulio, Angelo, poi c'era Cabimanno, che poi gli hanno fatto tutti brutta fine. Sì, sì. Di cavolo, proprio Angelo Cerchione che andavano d'accordissimo, andavano. Non lo so cosa sia successo, una volta ha dato uno schiaffo anche a una ragazza lì, perché stava ridendo, lui era al telefono, stava ridendo e ha detto, vuoi stare zitta, pugna già fu. Sì, già ce l'aveva queste cose di essere manesco, prima era micidiale, prima era proprio a Farradori. A me non è mai piaciuta la gente così, dico la verità. Lo so, ma Bruno c'è ancora? Non ho mai perso di segnale. L'antenna che gli ho fatto comprare io, la mini turbo. Ma pure io sono messo bene, quindi non ho problemi. Andava, dai, che ne so. Passa, guardo. Dai, sono incazzato, se ne vuole scendere giù. Bruno, passa a casa che ti do a casa a portarlo giù, tu che sei abituato. Sono le 19:32 già. Fra poco vado perché lui deve andare giù. Fra poco deve andare perché lui a quest'ora scende, è venuto già a avvisarmi. Ma io già l'orologio incorporato. Lo so. Se no se lo senti cantare, quando canto si mette a cantare. Troppo forte. Dopo più tardi ti chiamo perché ti voglio chiedere di una persona, Eia. Se lo conosci, che personaggio è? Illustre. Chiamami anche adesso, non c'è problema. Intanto mi sto mettendo la scarpa e sto scendendo giù, fra poco, là. Spengo tutto, saluto tutti cordialmente, dai, chiudo, là. Ciao Natalino, ciao anche a Bru, ciao Antonio, io adesso sto prendendo il telefono, là, ciao. Sì, faccio ti chiamo, già, un attimino, avanti Bruno. Ciao a tutti. ciao ciao, sei fortissimo, sì. La modulazione non lo sento, quanti natalici sei ancora? Sì, vi stavo ascoltando, dai, sto chiudendo anch'io, alle prossime, ciao a tutti. Ciao, ciao.